Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Banca Italia interviene sul taglio delle tasse sulla casa, basta che sia permanente, per i mutui un più 86% in un anno. Da Palazzo Koch intervengono anche sul caso Volkswagen, gli effetti sull'economia sono difficili da valutare. Battaglia per Kunduz conquistata dai talebani che usano le persone come scudi umani, raid americani sulla città. Non confermate le responsabilità dell'ISIS nell'assassinio del cooperante italiano, dice il Bangladesh. Presentata la festa del cinema di Roma, tra gli eventi una retrospettiva sul lavoro della Pixar. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Siamo oggi in diretta da Bologna, dal Cersaie, l'esibizione internazionale dedicata alla ceramica da arredamento, e avremo anche un ospite da qua con il quale parleremo di tasse sulla casa. Nei nostri titoli avete sentito in apertura quello che dice la Banca d'Italia, ma in realtà c'è una notizia dell'ultimo minuto che ci richiama, ed è una notizia che riguarda le riforme costituzionali, perché come sapete pendevano i 75 milioni di emendamenti presentati dalla Lega alla riforma costituzionale. Ebbene, è intervenuto direttamente il Presidente del Senato, Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così Simone, la soluzione ai 75 milioni di emendamenti presentati dalla Lega arriva direttamente dall'Aula del Senato per bocca del Presidente Pietro Grasso. Sono irricevibili gli emendamenti presentati in Aula, ma restano fermi quelli che invece sono già stati ricevuti dalla Presidenza della Commissione Affari Costituzionali e ripresentati in Assemblea, al netto di quelli ritirati. In pratica arriva di fatto la tagliola sugli oltre 75 milioni di emendamenti presentati dalla Lega Nord. Per rispettare i tempi stabiliti del calendario dei lavori, dice Grasso, la Presidenza è oggettivamente impossibilitata a vagliare nel merito l'abnorme numero di emendamenti, se non al prezzo di creare un precedente che consenta di bloccare i lavori parlamentari per un tempo incalcolabile. Un precedente gravissimo, accusa la Lega, vengono esclusi una serie di emendamenti a prescindere dal merito. Lei, dice la Lega, ovviamente rivolgendosi a Grasso, esclude gli emendamenti perché non ha modo di verificarne il metodo. La seduta a Palazzo Madama va avanti, come potete ben immaginare, però si è trovata la soluzione, quindi al ritiro, all'inaccettabilità di questi 75 milioni di emendamenti. A te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. La notizia, come vi dicevamo, è di pochi istanti fa. Stiamo cercando di rintracciare un costituzionalista per cercare di capire quanto effettivamente sia valida la decisione di Grasso e quanto invece magari possa aver ragione la Lega. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi e nelle settimane scorse, è effettivamente un problema piuttosto complicato. Siamo all'economia, all'indomani dello scontro tra l'Europa e il governo italiano con il rapporto sulla fiscalità che stimola il nostro paese ad intervenire sul taglio le tasse sul lavoro piuttosto che sulla casa, e la replica dura di Renzi, la Banca d'Italia apre all'ipotesi dell'eliminazione di IMU e TASI sull'abitazione principale. Sentiamo. Promosso a condizione che sia permanente. Il piano fiscale del Premier, basato sull'abbattimento delle imposte sulla casa, riceve l'ok condizionato dalla Banca d'Italia, a patto infatti che il taglio delle tasse sia permanente. L'avvertimento, nelle parole del vice direttore generale di Banca Italia, Luigi Federico Signorini, ascoltato sulla nota di aggiornamento al DEF davanti alle commissioni bilancio di Senato e Camera. Signorini sottolinea le scelte operate dal governo sul profilo temporale del riequilibrio dei conti pubblici vanno attentamente valutate, tenendo conto, ha detto però, dell'importanza di dare avvio a una chiara e progressiva riduzione del debito dopo 8 anni di crescita ininterrotta. Signorini ha poi insistito sul fatto che le continue variazioni al regime impositivo sulla casa, si tratterebbe del quinto intervento negli ultimi 7 anni, potrebbero indurre le famiglie a non reputare lo sgravio ora programmato come permanente, limitando, dice Signorini, significativamente gli effetti della misura sulle scelte di consumo. Per Banca Italia, il graduale rafforzamento della ripresa in atto dall'inizio dell'anno è confermato dagli indicatori più recenti, anche se ancora soggetto a rischi provenienti soprattutto dall'economia globale. Per questo sarebbe prudente assicurare un margine di sicurezza. Anche se questa finestra, dice Signorini, è positiva ed è un'occasione per consolidare il processo di riequilibrio della finanza pubblica. Occasione che non durerà indefinitamente ed è importante sfruttare. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come si diceva, la Banca d'Italia è intervenuta anche sulla vicenda Volkswagen, ci arriveremo tra poco, ma nel frattempo vogliamo aprire un'ampia pagina di esteri. All'indomani dell'incontro tra Obama e Putin per fare il punto sulla Siria e sulla lotta all'ISIS, oggi si parlerà di terrorismo all'Assemblea delle Nazioni Unite, nella quale è previsto anche l'intervento del Presidente del Consiglio Renzi. L'attenzione si sta spostando però, almeno momentaneamente, dalla Siria all'Afghanistan, a Kunduz, dove i talebani hanno preso possesso della città ed è in corso una dura battaglia. Siamo a Kunduz, snodo strategico nel nord Afghanistan e crocevia commerciale sulla strada per il Turkistan. Centinaia di persone stanno abbandonando le proprie case verso zone più sicure. Ci racconta la situazione di queste ore Stefano Zannini, direttore supporto alle operazioni di Medici Senza Frontiere. Muoversi in questo momento all'interno della città è estremamente pericoloso. Noi in questo momento siamo veramente super impegnati a curare le decine di pazienti che arrivano nel nostro ospedale. A ieri sera avevamo già curato 102 feriti. Conquistata dopo 14 anni di conflitto, Kunduz City, i talebani la rivendicano come prima capitale provinciale afghana a cadere in mano dei mujahideen. Dalle prime ore dell'alba però è già iniziata la controffensiva dell'esercito governativo. Grazie ai rinforzi parte della città è già stata riconquistata e liberata dai terroristi e presto sarà lanciata una grande operazione di ripulitura, ha reso noto il Ministero degli Interni afghano. E intanto gli americani bombardano la provincia per eliminare la minaccia talebana che rivendica Kunduz City dal 2001, quando il regime dei mujahideen era stato rovesciato da un'invasione guidata proprio dagli Stati Uniti. Federica Frola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo sui temi dell'estremismo islamico perché le indagini proseguono sul cooperante italiano assassinato in Bangladesh. A Dacca Cesare Tavella era arrivato a metà agosto, insegnava agronomia nell'ambito di un programma quadriennale come aveva già fatto nei tanti altri posti dove era stato in giro per il mondo, da quando nel 1993 aveva cominciato a fare il cooperante. Chi l'ha ucciso mentre faceva jogging nel quartiere diplomatico della città, con ogni probabilità lo aveva seguito. Almeno tre i colpi che hanno raggiunto il 51enne veterinario, nato a Milano ma residente in provincia di Ravenna. A rivendicare l'agguato l'ISIS, ma la Farnesina sta svolgendo ancora accertamenti ed il ministro dell'interno del Bangladesh dice che al momento non ci sono prove del coinvolgimento del califfato. Gli Stati Uniti hanno diramato intanto un avvertimento ai propri cittadini per limitare i loro movimenti. Così come ieri il Ministero degli Esteri britannico aveva messo in guardia i propri connazionali. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche su questi temi torneremo più avanti. Intanto un'altra notizia che arriva dall'estero è che il governo russo ha deciso di bloccare i voli in Russia delle compagnie aeree ucraine a partire dal 25 ottobre. Lo fa sapere il Ministero dei Trasporti di Mosca. Russia che risponde alla mossa di Kiev di vietare i voli in Ucraina alle compagnie aeree russe sempre a partire dalla stessa data, quindi dal 25 ottobre. Vedremo anche su questo fronte come evolveranno le cose. Facciamo il punto invece sulle notizie di oggi che riguardano il caso Volkswagen. Il Dieselgate minaccia la ripresa economica. A dirlo in audizione sulla nota di aggiornamento del documento Economia e Finanza davanti alle commissioni bilancio di Senato e Camera, il vice direttore generale di Palazzo Koch, Luigi Federico Signorini, secondo il quale all'incertezza presente sui mercati globali si è aggiunta negli ultimi giorni quella connessa con le possibili ripercussioni, difficili da quantificare, del grave scandalo Volkswagen. Intanto il governo giapponese ha ordinato un'inchiesta sui maggiori produttori di automobili locali, Toyota, Nissan, Mazda e Mitsubishi, e sugli importatori di marchi europei per verificare se i loro veicoli rispettino gli standard sulle emissioni di gas inquinanti. Misure analoghe sono già state adottate da vari paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Corea del Sud. Secondo quanto riporta Bloomberg, anche la Svezia starebbe valutando una sua indagine. Tutto questo mentre finisce nel mirino delle autorità americane anche BMW, accusata di ritardi e lentezze nel risolvere i problemi delle mini che non hanno superato i crash test. Bisogna sottolineare però che si tratta di un caso di una portata limitata rispetto a quello di Volkswagen. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo alla politica perché resta in primo piano la vicenda del sindaco di Roma, Ignazio Marino, dopo le parole di ieri del Papa. Ha A luglio un articolo del New York Times definiva il primo cittadino di Roma un novello Forrest Gump, le cui virtù sono spesso causa di guai. Questa volta nel mirino c'è il viaggio del sindaco a Filadelfia in occasione dell'incontro mondiale delle famiglie. Mentre lui non c'è, crolla il soffitto della metro romana alla fermata di Piazza di Spagna e si rialza la ventata di polemiche. Poi qualcuno fa una domanda al Papa e la risposta risuona come l'ennesima figuraccia per il sindaco. Io non ho invitato il sindaco Marino. Chiaro, io non ho fatto e ho chiesto agli organizzatori, neppure loro lo hanno invitato. Lui è venuto, si professa cattolico, è venuto spontaneamente. Nessuno ha mai parlato di un invito al Vaticano, fa sapere prontamente Ignazio Marino. Sono stato invitato dal sindaco di Filadelfia e dal vescovo durante il nostro incontro a giugno, quando vennero a chiederci la nostra esperienza nell'organizzazione di grandi eventi. Non ci sarebbe stato motivo, dunque, di fare quella domanda al Papa, ma una smentita così dal Santo Padre farebbe male a chiunque. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vedremo come evolverà anche la vicenda del sindaco di Roma. Adesso ci occupiamo di mafia e del PM Nino Di Matteo e delle minacce che lo riguardano. L'esplosivo per l'attentato al PM Nino Di Matteo è stato trasferito in un altro nascondiglio sicuro. E la rivelazione di Francesco Chiarello, ex boss del Borgo Vecchio a Palermo, è oggi pentito, il quale però non dà indicazioni su dove sia stato nascosto il tritolo. La notizia, anticipata nei giorni scorsi da Repubblica e ora rilanciata dal Fatto Quotidiano, conferma le dichiarazioni dell'ex boss Vito Galatola, oggi pentito, il quale aveva parlato di un progetto della mafia siciliana di uccidere il magistrato. Chiarello ha raccontato di aver appreso dell'esistenza dell'esplosivo dal suo compagno di cella Camillo Graziano, figlio di quel Vincenzo accusato dal pentito Vito Galatolo di aver conservato 150 kg di esplosivo acquistato in Calabria tra il 2012 e il 2013, che doveva essere usato contro il PM del pool della cosiddetta trattativa Stato-Mafia. L'esplosivo, che è stato cercato a lungo dagli investigatori, non si trova e restano le parole di Galatolo, il quale ha raccontato che per l'attentato a Di Matteo ha dato il via libera allo stesso Matteo Messina Denaro, il quale avrebbe messo a disposizione un artificiere. Intanto il verbale su Vincenzo Graziano è stato trasmesso alla procura di Caltanissetta, che indaga proprio sul progetto di attentato nei confronti di Di Matteo. Nina Madure, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E passiamo allo sport adesso, insomma non fa in tempo a finire una giornata di campionato. Carlo Genta, che ne inizia una di Champions, che cosa dobbiamo aspettarci? Ciao. Ciao Simone, sì, rotta di collo come al solito, ma molto divertente tutto questo perché stasera torna in campo la Roma nel suo girone di lusso che comprende il Barcellona, che giocherà una partita per la Roma, anche per la Roma estremamente importante da monitorare, con il Bayer Leverkusen. La Roma invece è sul campo di quella che dovrebbe essere la Cenerentola di questo girone, cioè il Bate Borisov, con alcuni problemi di formazione. Dzeko e Totti, come sappiamo, sono infortunati. Salah dovrà fare gli straordinari in attacco e quindi Garcia dovrà in qualche modo inventarsi la formazione, ed è un risultato molto importante dopo l'1-1 interno con il Barcellona. La Juventus invece è attesa domani ed è strettamente sotto i riflettori in questo periodo, in casa con il Siviglia, e non sono ammessi passi falsi per vari motivi, nonostante la vittoria di Manchester. Stasera si giocano altre gare che sono interessanti, ben non tanto Bayern Monaco Dinamo Zagabria dal risultato scontato, un po' di più Arsenal Olympiacos nel gruppo F, nel gruppo G Maccabi Dinamo Kiev e un ritorno a casa, cioè quello di Mourinho sul campo del Porto, di cui è stato allenatore e con cui ha vinto la Champions League. Gruppo H per Lione Valencia e Zenit Gant. Questo il piano partita per la serata di Champions League, Simone. Grazie Carlo Genta, e ti ritroviamo ovviamente in tutti i convocati a partire dalle 14, che domani sarà in diretta come siamo noi oggi dal Cersaie qua a Bologna. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi torneremo a fare brevemente un punto di politica, perché ci sono ulteriori novità rispetto al dibattito sulle riforme, e poi torneremo all'estero con queste tre notizie importanti che in realtà hanno un filo conduttore, se vogliamo, e sono l'assassinio del cooperante italiano, l'attacco dei talebani su Kunduz e soprattutto la ricerca di una soluzione alla guerra civile siriana. Tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, sempre in diretta dal Cersaie a Bologna. Le notizie principali: il Presidente del Senato Grasso ha dichiarato inammissibili gli oltre 70 milioni di emendamenti della Lega alla riforma costituzionale. Banca Italia interviene sul taglio delle tasse sulla casa, basta che sia permanente. Da Palazzo Koch si parla anche del caso Volkswagen, gli effetti sull'economia sono difficili da valutare. La battaglia per Kunduz in Afghanistan è stata conquistata dai talebani, che usano le persone come scudi umani. Sono partiti raid americani sulla città. È in corso di presentazione la Festa del Cinema di Roma. Tra gli eventi è probabile che ci sia una retrospettiva sulla Pixar. E torniamo adesso ad aggiornarvi sulle riforme costituzionali, perché vi abbiamo raccontato poco fa come il Presidente del Senato Grasso abbia dichiarato inammissibili gli oltre 70 milioni di emendamenti della Lega, e però poco fa ha fatto sapere che ne rimangono parecchi. Elisabetta Fiorito, è così, no? Sì, intanto vi do un aggiornamento, perché qui ovviamente la discussione va avanti nell'aula del Senato, le opposizioni si sono subito alzate, hanno protestato, Paolo Romani di Forza Italia ha parlato di decisione politica e il presidente Pietro Grasso ha ripreso la parola proprio per spiegare che gli emendamenti, ricordiamo i 75 milioni di emendamenti della Lega, sono considerati inammissibili perché presentati in aula, si è trovato questo escamotage, ma soprattutto, dice Grasso, perché noi dobbiamo concludere i lavori il 13 ottobre come previsto dalla conferenza dei capigruppo e quindi non c'è assolutamente possibilità di leggere 85 milioni di emendamenti, ci vorrebbero 17 anni. Romani ha detto anche sta sbagliando, Presidente crea un precedente pericoloso, la discussione come potete ben immaginare sta andando avanti proprio su questo punto, però intanto il nodo si è sciolto, sono inammissibili quelli della Lega, ne rimangono, come dicevi tu Simone, 500.000 da analizzare, quindi non è che sono pochissimi, però i milioni, gli emendamenti con l'algoritmo ritmo sono oramai stati cancellati. Ottimo, grazie Elisabetta Fiorito anche per questo aggiornamento, torneremo a parlarne alle 13.35, sentiremo il parere di un costituzionalista per capire appunto se la mossa di Grasso possa considerarsi regolare oppure no. Vi abbiamo parlato anche nella prima parte della trasmissione, vi abbiamo fatto sentire il servizio dell'opinione sull'opinione della Banca d'Italia sulle tasse sulla casa. Dice possono avere degli effetti positivi sui consumi, basta che questo sgravio sia permanente. Abbiamo con noi, proprio qua in diretta da Cersaie, che è a Bologna, l'esibizione internazionale sulla ceramica, il direttore generale di Confindustria Ceramica, Armando Caffiero, proprio per parlare di questo. Buongiorno Caffiero. Buongiorno. Allora Caffiero, voi ieri avete sostenuto che il taglio delle tasse sulla prima casa, IMU e TASI, insomma, sarebbe una misura che vi vede favorevoli. Dal nostro punto di vista non possiamo più essere d'accordo con quanto ha affermato la Banca d'Italia. Il nostro settore prima della crisi aveva dei consumi sul mercato interno di 180 milioni di metri quadrati che sono più che dimezzati, anche quest'anno dove abbiamo visto un rallentamento della decrescita. La casa per gli italiani, lo diceva ieri il nostro presidente Borelli, sicuramente ha un impatto sull'economia familiare molto superiore che in altri paesi, abbiamo più dell'80% di proprietari di prime case, quindi è fondamentale dar stabilità a una misura come l'abolizione dell'IMU e della TASI sulla prima casa, perché questo può avere una componente reale di incentivo ai consumi ma anche di fiducia per i nostri consumatori. Però non è esattamente misurabile l'impatto che potrebbe avere sul vostro settore e sull'edilizia in generale una misura di questo genere, perché non è detto poi che quei consumi si spostino immediatamente, no, dal vostro lato. Sicuramente non c'è un effetto direttamente misurabile. Noi però abbiamo un settore che sulle esportazioni sta performando in relazione a quelle che sono le opportunità di crescita che vediamo sui mercati internazionali. nazionali, più 4% anche, anche nel primo semestre di quest'anno. Il mercato italiano è in sofferenza da 6 anni, qualche cosa dobbiamo assolutamente provare a fare. Questa misura, sicuramente accompagnata con una conferma strutturale degli incentivi per l'efficienza energetica e per la ristrutturazione delle case, avrà sicuramente un qualche effetto anche in termini di fiducia del consumatore. L'ultima domanda che le voglio fare riguarda il fatto che siete anche un'associazione imprenditoriale e quindi il tema è questo: ci si sta dividendo un po' perché gli economisti, molti economisti dicono è meglio ridurre le tasse sul lavoro rispetto a quelle sulla casa, ed effettivamente per le imprese anche questo è un elemento importante. Secondo lei c'è una linea per trovare un equilibrio tra le due cose? Ma il problema di competitività delle nostre imprese è sicuramente grande, ed era l'altro tema che ha posto sul tavolo ieri il presidente Borelli. Abbiamo un problema di definire un bilancio fra le due misure, ma non agire sulle tasse della casa vorrebbe dire lasciare un settore che ha sofferto troppo fino a questo momento. Piuttosto, ecco, uno dovrebbe interrogarsi anche su altre scelte che sono state fatte negli ultimi anni. Abbiamo incentivato le fonti rinnovabili per l'energia, sicuramente un provvedimento che va in una direzione molto giusta se uno guarda le necessità di interventi sull'ambiente, ma l'abbiamo fatto in un modo che abbiamo costituito delle rendite che sono state costituite nel 2009, non 10 anni fa. Se quei soldi, si parla di quasi 12 miliardi di euro, fossero stati messi sulle nostre case, sulle nostre città, forse staremmo vedendo effetti molto diversi. E grazie ad Armando Cafiero, direttore generale di Confindustria Ceramica, per questa sua posizione. Noi adesso torniamo a parlare di politica, torniamo a parlare di questa sorta di atto di imperio con il quale il Presidente del Senato ha deciso di cassare i 70 milioni di emendamenti della Lega. Saluto Francesco Clementi, che è costituzionalista all'Università di Perugia. Professor Clementi, benvenuto. Grazie, buongiorno. Buongiorno, abbiamo chiamato lei perché tra l'altro l'avevamo interpellata proprio per capire come il Senato sarebbe potuto uscire da questi 70 milioni di emendamenti che in tutta teoria avrebbe dovuto esaminare completamente e che avrebbero comportato un lavoro di 17 anni, questo è il calcolo che è stato fatto. Allora, ci dica Clementi, secondo lei è valida la decisione di Grasso oppure no? Oppure come dice la Lega si sta creando un precedente gravissimo? Dunque, andiamo con ordine. Avevamo già commentato e il Presidente ha fatto esattamente quanto in fondo molti di noi avevano commentato e scritto, cioè ha esercitato quello che i regolamenti parlamentari gli attribuiscono, il ruolo di Presidente d'Assemblea, che è innanzitutto quello di gestire il buon andamento dei lavori. Il buon andamento dei lavori, lo ha detto molto chiaramente anche lei, sarebbe stato fortissimamente compromesso, e dunque anche la legge di stabilità, che è il punto poi cardine su cui i lavori parlamentari nell'anno o vengono ad organizzarsi, sarebbe stata fortissimamente compromessa. Non c'è alcun atto di imperio in senso stretto, vorrei dire, ma appunto semplicemente l'esercizio delle sue prerogative. Sottolineerei innanzitutto che il Presidente ha utilizzato quello che è l'articolo 97 del regolamento del Senato, che leggo proprio esattamente al comma 1: sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti. E continua: il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, l'emendamento della proposta, decide inappellabilmente. Cioè il Presidente in qualche modo si fa carico di misurare se le scelte che vengono proposte in questi tipi di atti parlamentari rischiano di essere in qualche modo lesive dei poteri, delle funzioni, delle prerogative del buon andamento dei lavori del Senato. Lui in fondo è un garante su questo e lo ha esercitato con piena chiarezza. E è molto interessante quello che infatti ha detto il Presidente, sì, scusi se l'ho interrotta, prego. Perché il Presidente non dice che sono inammissibili, cioè letti e non dichiarati, diciamo, tali da essere potenzialmente ammissibili, ma dice irricevibili. Cioè il Presidente si rende conto che anche semplicemente la solo vaglio determinerebbe in qualche modo il blocco dei lavori. Questo è il tipo di lettura, una lettura estremamente garantista, che prescinde appunto innanzitutto dal merito tecnico del contenuto degli emendamenti, quindi salvaguardia anche le ragioni della politica, innanzitutto quella della Lega Nord. Anche perché, professore, diciamocelo, seppur formalmente corretta la presentazione di 75 milioni di emendamenti da parte dei Calderoli, insomma, materialmente fatti con l'algoritmo, non è che fosse proprio una cosa così corretta dal punto di vista appunto materiale. Io faccio appunto di mestiere il costituzionalista comparatista e non c'è paese al mondo che abbia avuto questo caso. Cioè, è un primo screening, 75 milioni, 80 milioni, insomma i numeri poi ormai sono veramente quelli che sono, non è stato presentato in nessun caso, perché l'obiettivo in fondo era più quello di creare un blocco che quello di creare una soluzione. A fine l'emendamento è l'espressione di una scelta politica che mira ad ottenere ragione rispetto ad una soluzione di un problema. Ecco, 80 milioni diverse di soluzioni potenzialmente tendenti all'infinito alla luce di un algoritmo non sono la soluzione, ma sono l'intento appunto di bloccare i lavori. Il Presidente, non solo oggi, cioè tutti i Presidenti di Assemblea, da quando le Assemblee parlamentari nella storia del costituzionalismo si difendono da e difendono le loro prerogative, svolge questa funzione, protegge il Parlamento e protegge i suoi lavori. Grazie a Francesco Clementi, costituzionalista all'Università di Perugia, anche per i suoi chiarimenti e anche per averci dato questa notizia, insomma, in base ai suoi studi, questo è stato l'unico caso nella storia dei parlamenti occidentali, niente male. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, come sempre c'è la borsa e poi torneremo a fare il punto su quello che sta accadendo intorno al mondo dell'estremismo islamico, su quei tre fronti che vi dicevamo, da una parte la guerra in Siria e il quello che possono fare la Russia e gli Stati Uniti insieme, dall'altra parte l'assassinio del cooperante italiano avvenuto a Dhaka e in Bangladesh e rivendicato dall'ISIS e poi questo attacco ai talebani su Kunduz. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto di Radio 24 a metà giornata su quello che succede in Italia e nel mondo, sempre in diretta dal Cersaie a Bologna. Ecco le notizie principali. Il Presidente del Senato Grasso ha dichiarato inammissibili gli oltre 70 milioni di emendamenti della Lega alla riforma costituzionale, ma ne resta mezzo milione. Banca Italia sul taglio delle tasse sulla casa dice basta che sia permanente, ci sono state 5 modifiche negli ultimi 7 anni, segnali positivi dai mutui più 86% in un anno. 3 colpi di pistola alle spalle, così è stato ucciso il cooperante italiano in Bangladesh, dice il risultato dell'autopsia diffuso pochi istanti fa. La battaglia per Kunduz conquistata dai talebani che usano le persone come scudi umani, raid americani sulla città. La borsa. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, al microfono sempre Simone Spezia, in linea con noi Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, bentornato. Buongiorno a tutti voi. Per fare un punto insieme a te su tutto quello che ruota in queste ore intorno all'estremismo islamico e contro l'estremismo islamico, partirei dall'assassinio avvenuto ieri in Bangladesh del cooperante italiano Tavella. I risultati dell'autopsia arrivati pochi istanti fa parlano di 3 colpi alle spalle, una rivendicazione che arriva dall'ISIS. Vorrei sapere da te come la leggi. Ma la dinamica di questo assassinio è abbastanza, come dire, esplicita. È stato raggiunto da un comando in motocicletta che ha sparato con armi silenziate. Quindi, insomma, le modalità di una esecuzione con tutte le regole, insomma, di un omicidio premeditato. In più, dopo l'assassinio, che si è verificato alle 7 ora locale, dopo un'ora e 5, c'era già la rivendicazione sul web da parte dell'ISIS che descriveva l'azione e che faceva il nome di Cesare Tavella, indicando precisamente che era lui il bersaglio di questo attentato. Ora, quindi una vera e propria esecuzione, giusto per chiarire anche ai nostri ascoltatori, quello che stai sottolineando è che è stata una vera e propria esecuzione con un obiettivo mirato, a differenza di altri, di molti altri casi nei quali l'ISIS e gli estremisti islamici hanno colpito, diciamo così, nel mucchio, per così dire. Sì, non mi sembra un attentato diretto genericamente contro un occidentale o contro qualcuno che lavorava per gli occidentali in Bangladesh, ma mi sembra un attentato invece diretto contro qualcuno che lavorava precisamente in quel paese, che è stato come dire, individuato, pedinato e poi ucciso per dei motivi che forse ancora non sappiamo, perché secondo me sulla morte di Cesare Tavella aleggia ancora qualche mistero. Aleggia ancora qualche mistero e vedremo come evolveranno le cose nelle prossime ore per capire effettivamente che cosa c'è dietro. Ti vorrei portare sui temi dell'Afghanistan, Alberto. C'è questa vittoria, la prima da molti anni, dei talebani che hanno preso la città di Kunduz. L'Afghanistan, l'esercito afghano sta tentando una reazione supportato dagli americani che stanno bombardando la città. Ti chiederei due cose. Innanzitutto, che cosa rappresenta Kunduz, perché e se è una città strategica, e poi come può andare a finire? Beh, Kunduz è strategica perché è una città che ha, come dire, un po' il crocevia del nord dell'Afghanistan, sia in direzione appunto nord verso la zona controllata più dai tagiki, che quella verso sud, insomma verso il resto del paese. Talmente strategica che appunto fu teatro di una battaglia furibonda nel 2001 e forse l'assedio di Kunduz è stato uno dei più duri che ci sono stati in quel periodo, e addirittura furono evacuate alcune migliaia di combattenti stranieri quando gli americani entrarono dentro in Iraq con le forze afghane, che furono evacuati da una città che appunto tenevano migliaia di uomini. Questa riconquista da parte dei talebani è un doppio segnale: uno ovviamente nei confronti del governo afghano e degli alleati americani occidentali, e l'altro proprio nei confronti dell'ISIS, perché il califfato fa concorrenza anche ai talebani ormai in Afghanistan. Infine, Alberto, il tema della Siria, della guerra che si sta combattendo in Siria. Tra l'altro su questo tornerà tra poco Mario Platero in America 24, raccontandoci un po' tutti i dettagli di questo incontro tra Putin e Obama, un incontro lungo durato un'ora e mezza nella quale si è cercato di trovare una sorta di accordo sul futuro della Siria, accordo che non c'è proprio per la figura di Bashar el-Assad, perché gli americani vorrebbero rimuoverlo, i russi non lo ritengono opportuno, forse ritengono semplicemente prioritario combattere l'ISIS e poi eventualmente ragionare sul futuro di Assad. Vorrei capire da te come pensi che andrà a finire, perché mi sembra di capire che gli americani abbiano anche aperto la possibilità, come dire, di pensare al futuro di Assad un po' dopo, cioè prima pensiamo al califfato e poi dopo pensiamo ad Assad. Obama, prima di incontrare Putin, ha detto una frase che ha lasciato intravedere alcuni spiragli. Ha dichiarato: non possiamo risolvere da soli i problemi del mondo, rendendosi conto che in realtà i problemi li hanno creati anche gli americani, prima con l'invasione dell'Iraq nel 2003 e poi anche quando si è trattato nel 2011 di capire che cosa fare in Siria, e gli stessi Stati Uniti hanno poi appoggiato quello che facevano i loro alleati turchi e arabi, cioè il passaggio di migliaia di jihadisti che poi sono anche confluiti nel califfato proprio per combattere Assad. Insomma, questa battaglia per abbattere il presidente siriano si è rivelata un disastro soprattutto per un popolo che è ormai stritolato da una parte tra il regime e dall'altra dal califfato. Insomma, a questo punto bisogna trovare una soluzione. È evidente che se uno interviene contro il califfato, contro l'ISIS, favorisce anche in qualche modo la permanenza di Assad, ma qui, e questo è importante del negoziato, è questo per cui si sta trattando con Putin e con gli altri attori della regione, questo è proprio l'oggetto della trattativa: come potrà avvenire una fuoriuscita di Assad dal potere. Certo, non immaginare una transizione dall'oggi all'indomani, anche perché il vuoto poi deve essere riempito, e da chi la fanno riempire gli americani questo vuoto? Dai jihadisti dell'ISIS. Insomma, dobbiamo essere anche un po' realisti, e forse anche gli Stati Uniti dovranno prendere atto di quelli che sono stati anche i loro errori di calcolo, insieme a quelli di molti altri attori della regione. Pensavano che Assad potesse cadere in poche settimane del 2011, come era accaduto a Ben Ali, a Mubarak, e poi accadde anche per Gheddafi. E così non è avvenuto. Grazie, grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, come sempre per la sua chiarezza di analisi. Prima di andare al traffico, la Festa del Cinema di Roma, che è stata presentata, anzi in corso di presentazione. Marta Cagnola, ciao. Sì, ciao Simone, hai detto bene, Festa del Cinema di Roma, perché lo spirito è quello di fare tornare il Festival di Roma alla sua intenzione iniziale, quindi appunto quella di festa e non di festival. Ce ne sono tanti altri, in pratica è l'affermazione degli organizzatori. In particolare, allora, ci sarà tutto nel segno di Virnalisi, il cui volto campeggia sul manifesto. 37 film appartenenti a generi molto diversi: musical, documentari, thriller, melodrammi, commedie, cartoon e anche film d'azione. Tra i 37 titoli, quelli italiani saranno Alaska di Claudio Cupellini, Dobbiamo parlare di Sergio Rubini, Lo chiamavano Gig Robot di Gabriele Mainetti, e ci sarà anche Gianni Amelio con il documentario realizzato con Cecilia Pagliarani, Registro di classe, parte prima 1900-1960. Tre le retrospettive curate da Mario Sesti, una per Antonio Pietrangeli, regista di Adua e le compagne, una per Pablo Larraín e una per i 20 anni dall'uscita di Toy Story 1995, quindi una retrospettiva Pixar. Che è un po' meraviglia. Il nostro debole. Che meraviglia. Grazie. Te l'ho lasciata come ciliegina, Simone. Come ciliegina sulla torta. Grazie Marta Cagnola per questo aggiornamento. Il traffico, Platero, ci ritroviamo alla fine per i saluti.